America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. And now for the moment we have all been waiting for. And the Oscar goes to Argo. Michelle Obama che annuncia il film, il miglior film che si è aggiudicato l'Oscar ieri notte a Los Angeles. Una sorpresa nella sorpresa, non era mai successo che una First Lady o comunque un collegamento live dalla Casa Bianca partecipasse alla cerimonia degli Oscar, dunque si è fatta storia, ma l'altra sorpresa sta nella scelta. Argo è un film sicuramente interessante e divertente, ma non è mai stato considerato dai critici dello stesso livello dal punto di vista produttivo di un Les Misérables oppure di Lincoln di Steven Spielberg. C'è dunque la politica che in qualche modo si intreccia con Hollywood. Intanto il presidente americano, grazie alla moglie, ha voluto ringraziare Hollywood per l'aiuto che ha avuto durante la campagna elettorale e di nuovo in qualche modo, secondo me, cerca di sfruttare l'immagine di Hollywood per poter combattere una battaglia durissima che si consumerà nei prossimi giorni, la battaglia per la riduzione del disavanzo pubblico americano. I repubblicani resistono alle proposte di Barack Obama che vuole introdurre nuovi aumenti delle tasse da accompagnarsi a tagli delle spese. E il pericolo qual è? È che se non si metteranno d'accordo entro una settimana partiranno tagli automatici per 85 miliardi di dollari nel 2013 della spesa pubblica americana, con conseguenze catastrofiche per la crescita. Si parla di una contrazione dell'1,5-2%. La borsa, se le cose andassero in quel modo, reagirà malissimo. I got an idea. They're a Canadian film crew for a science fiction movie. I fly into Tehran. We all fly out together as a film crew. I need you to help me make a fake movie. So you want to come to Hollywood and act like a big shot without actually doing anything? Yeah. Argo, Argo è un'autocelebrazione di Hollywood, perché è la storia di come dei produttori cinematografici hanno aiutato un agente della CIA in una missione impossibile in cui si cercava di liberare alcuni ostaggi che erano riusciti a scappare dall'ambasciata americana a Teheran quando nel 1979, all'epoca della rivoluzione comunista, l'ambasciata fu occupata e numerosi ostaggi restarono poi per centinaia di giorni prigionieri degli iraniani. Un film abbastanza epico, un film avventuroso, un film simpatico e divertente, ma ripeto, secondo me non del livello di un Lincoln di Spielberg o di Les Misérables. Rivincita dunque in qualche modo di Ben Affleck, che non era riuscito a entrare nella lista dei migliori attori, in quella della miglior regia. Ha vinto come produttore, è stato coprodotto questo film da lui e da George Clooney. Good evening, ladies and gentlemen, welcome to the Oscars. And the quest to make Tommy Lee Jones laugh begins now. Ma veniamo all'apertura della serata. L'ospite, il conduttore, è stato Seth MacFarlane, che devo dire è più famoso come autore dell'irriverente cartone animato di cui è creatore, appunto Family Guy, i Griffin, che come attore o presentatore. Eppure è stato bravissimo, una volta di più. Insomma, abbiamo la conferma di quanto la professionalità degli americani nel mondo dello spettacolo sia straordinaria. C'è stato anche un siparietto molto divertente in cui Seth MacFarlane si confrontava chiedendogli consiglio col capitano Kirk di Star Trek, soprattutto quando in un costume da suora appare nello stanzino di Sally Field, l'attrice coprotagonista di Lincoln, e la rapisce per una notte d'amore. And the Oscar goes to Ang Lee. Migliore regia è andata Ang Lee, un taiwanese, per Life of Pi, un film fantasioso, la storia di un ragazzino che perde i genitori in un naufragio di una nave, di un transatlantico, e si trova poi su questa scialuppa in compagnia di una triga. Un film molto bello, Ang Lee è un regista taiwanese. Migliore regia è stato preferito a Steven Spielberg, che correva naturalmente per Lincoln. Ecco, proprio su Lincoln vorrei soffermarmi un attimo, perché il film è un film molto bello, anche di una valenza politica non da poco, perché dall'idea di come il muro contro muro fra repubblicani e democratici c'era 150 anni fa, proprio come c'è adesso, e aveva ben 12 candidature Lincoln, e invece se ne torna a casa con un bottino piuttosto magro, soltanto due statuette. una importante miglior attore per Daniel Day-Lewis. I really don't know how any of this happened. I do know that I've received so much more than my fair share of good fortune in my life, and I'm so grateful to the Academy for this beautiful honor. Daniel Day-Lewis, bravissimo, ha fatto storia, e la terza statuetta nessun altro attore era mai riuscito a conquistare: 3 premi Oscar come miglior attore protagonista. Ma la lezione vera Daniel Day-Lewis l'ha data nel momento in cui ha ricevuto l'Oscar, con una oratoria, con un linguaggio, con una partecipazione di un livello sicuramente superiore a quella della media dei suoi colleghi americani. Ricordiamolo, Daniel Day-Lewis viene dalla scuola inglese. What meds are you on? I used to be on lithium and Seroquel. I was on Xanax. You ever take Klonopin? Klonopin, yeah. Like, is it what? I'm tired, I wanna go. Are you gonna walk me home or what? Miglior attrice protagonista, Jennifer Lawrence in Silver Linings, un film molto bello, molto interessante, che racconta la storia di un giovane disadattato che riesce a trovare la sua strada poi in compagnia di questa donna. La sua performance è stata molto molto buona. Beh, naturalmente combatteva contro Jessica Chastain, protagonista di Zero Dark Thirty, un film di nuovo molto bello, secondo me un film più bello di Argo, che però trattava un argomento delicato, in qualche modo affrontava la questione della tortura, del waterboarding, e dava un'approvazione velata di queste tecniche. Dunque è stato punito duramente da Hollywood. Maybe beautiful and dear. What's too painful to remember? We simply choose to forget. So it's the laughter we'll remember. Whenever we Barbara Streisand, indimenticabile, bravissima, ha cantato The Way We Were, così celebrando Marvin Hamlick, che è mancato l'anno scorso, in quello che è un po' un appuntamento fisso nella celebrazione degli Oscar, e cioè quelli che ci hanno lasciato. Fra i personaggi e gli attori c'erano due italiani, Tonino Guerra e Carlo Rambaldi. Una piccola aggiunta: Dario Marianelli, che invece era in corsa per la miglior colonna sonora con Anna Karenina, non è riuscito a giudicarsi un Oscar. Ma vado rapidamente: Christoph Waltz in Django Unchained, miglior attore non protagonista, bravissimo, devo dire, istrionico, ha interpretato magistralmente il ruolo di un trafficante di schiavi nel sud americano. Miglior attrice non protagonista, Anne Hathaway, per il suo ruolo in Le Miserabili, in effetti molto brava. Se non altro ha meritato l'Oscar per essersi lasciata imbruttire e rapare oltre misura da truccatori che hanno vinto, non a caso, l'Oscar appunto per Le Miserables, che se ne ha giudicati 3. Vi cito infine Quentin Tarantino, che è riuscito ad avere la migliore sceneggiatura originale. È la seconda volta che vince un Oscar, la prima fu nel 94 con Pulp Fiction. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, non possiamo che dedicarla ad Adele, e lei che ha vinto l'Oscar per la migliore canzone, Skyfall, per l'omonimo film di James Bond. I'm Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!